Siamo arrivati al cambio console. Un grandissimo applauso per Paco Imar, grazie. Adesso Matrix, voglio vedere da destra a sinistra tutte le mani che si alzano al cielo. Inaugurazione ufficiale 2008-2009. Matrix è lieto di presentarvi Top International DJ Chris Libby. I'm going to go to the next one.